Partì su un piroscafo francese che fece scalo in ognuno dei dannati porti che quelli hanno laggiù, al solo scopo, per quanto mi fu dato di vedere, di sbarcarvi soldati e doganieri. Ci vollero più di 30 giorni prima che riuscissi a vedere la foce del grande fiume. «Ecco la stazione della sua compagnia», disse lo svedese, indicando col dito 3 edifici di legno simili a caserme, in cima al pendio roccioso. Trovai un sentiero che portava alla collina. Alla mia sinistra un ciuffo d'alberi gettava una macchia d'ombra in cui delle cose oscure sembravano muoversi debolmente. Una detonazione violenta e sorda scosse il suolo, uno sbuffo di fumo uscì dalla rupe. E fu tutto. Sulla parete della roccia non apparve alcun cambiamento. Stavano costruendo una ferrovia. La rupe non intralciava in alcun modo la strada, ma tutto il lavoro in corso consisteva in quell'inutile brillamento di mine. Un lieve tintinnio dietro di me mi fece volgere il capo. 6 neri in fila si inerpicavano su per il sentiero. Camminavano rigidi e lenti, tenendo in equilibrio sulla testa delle ceste piene di terra. Il tintinnio segnava il tempo dei loro passi. Sui loro fianchi erano annodati degli strasci neri, le cui corte estremità si agitavano dietro la schiena come delle code. Le loro costole si distinguevano una a una. Le giunture delle loro membra sembravano i nodi di una corda. Ciascuno aveva intorno al collo un collare di ferro e tutti erano legati da una catena i cui anelli, dondolando fra l'uno e l'altro, tintinnavano ritmicamente. Qui li chiamavano criminali e al pari delle cannonate la legge calpestata si era abbattuta su di loro come un mistero insolubile venuto dal mare. I magri, i petti ansimanti, le narici frementi violentemente dilatate, gli occhi pietrificati fissi sulla collina mi passarono accanto, quasi sfiorandomi, senza uno sguardo, con quella totale mortale indifferenza dei selvaggi infelici. Invece di continuare a salire, girai a sinistra e incominciai a scendere. Volevo aspettare che quella ciurma incatenata sparisse dalla mia vista prima di riprendere la salita. Alla fine giunsi sotto gli alberi. Il mio proposito era di gironzolare all'ombra per un po', ma non appena fui lì dentro mi parve di avere varcato la soglia di un tenebroso girone di un qualche inferno. Le rapide erano vicine e un fragore continuo, monotono, impetuoso, pulsante riempiva la funerea immobilità di quel boschetto in un suono misterioso. Come se il movimento vorticoso della terra nello spazio fosse improvvisamente divenuto percepibile. Nere forme stavano accovacciate, sdraiate, sedute fra gli alberi, appoggiate ai tronchi, avvinghiate alla terra, per metà visibili, per metà nascoste entro la luce incerta, in tutte le pose del dolore, dell'abbandono, della disperazione. Che stessero morendo, e di una morte lenta era chiarissimo: non erano nemici, non erano criminali, non erano niente di terreno ormai, niente se non nere ombre di malattia e di fame che giacevano alla rinfusa nella penombra verdastra. Portati dai luoghi più nascosti della costa, con tutta la legalità dei contratti a termine, sperduti in un ambiente avverso, nutriti con cibo per loro insolito, si ammalavano, diventavano inefficienti e allora si concedeva loro di trascinarsi in disparte a riposare. Queste forme moribonde erano libere come l'aria e altrettanto impalpabili. Cominciai a distinguere un lampeggiare di occhi sotto gli alberi. Poi, abbassando lo sguardo, vidi una faccia vicino alla mia mano. Un mucchio d'ossa nere giaceva disteso con una spalla contro un albero. Lentamente le palpebre si sollevarono, gli occhi incavati mi guardarono, enormi e vuoti. Nella profondità delle orbite ci fu una specie di scintilla bianca, cieca, che si spense lentamente. L'uomo sembrava giovane, quasi un ragazzo, ma sapete, con loro è difficile da dire. Non trovai niente di meglio da fare che dargli una delle gallette che avevo in tasca. Le sue dita si richiusero lentamente e la trattennero senza nessun altro movimento né altro sguardo. Mi era passata la voglia di gironzolare nell'ombra e ripresi in fretta il cammino verso la stazione. Vicino ai fabbricati incontrai un bianco di un'eleganza così inaspettata che al primo momento lo presi per una visione. Vidi un alto colletto inamidato, polsini bianchi, una leggera giacca di alpaca, pantaloni candidi, una cravatta chiara e stivaletti di vernice, senza cappello. I capelli divisi dalla riga, ben spazzolati, impomatati, sotto un parasole bordato di verde, sorretto da una grossa mano bianca. Era stupefacente e portava una cannuccia di penna dietro l'orecchio. Strinsi la mano a quel miraggio e venni a sapere che era il capo contabile della compagnia. Nella stazione tutto il resto era solo confusione. Nelle teste, nelle cose, negli edifici. Dovetti aspettare 10 giorni, un'eternità. Alloggiavo in una capanna nel cortile. Ma per sfuggire al caos qualche volta andavo a rifugiarmi dal contabile. Generalmente mi sedevo per terra mentre lui, appollaiato su un alto sgabello, impeccabile ed anche leggermente profumato, scriveva e scriveva. Un giorno, senza alzare il capo, osservò: nell'interno incontrerà certamente il signor Kurz. Bene, grazie a Tommaso Minniti che ha letto magistralmente queste prime pagine del libro Cuore di Tenebre di Conrad, che è stato scelto per questo pomeriggio. Il tema è quello di vittoria sconfitta, la dialettica tra due stati d'animo contrapposti. Nelle pagine di Conrad è una dialettica che fotografa la storia dei popoli. Il popolo bianco tradizionalmente dominatore e vincitore e il popolo dei neri. È un'immagine un po' datata, oggi la realtà è molto cambiata, basta pensare che l'anno scorso i paesi che sono cresciuti di più in termini di sviluppo economico sono paesi del Centro Africa, il Ghana ha cresciuto del 19%, un ritmo di crescita impensabile per la vecchia Europa, alla guida degli Stati Uniti è stato riconfermato un nero, quindi una fotografia di vincitori e sconfitti tra i popoli, certamente scritta in modo magistrale, ma forse un po' datata. Ma vittoria e sconfitta non è soltanto una vittoria e sconfitta delle vicissitudini tra i popoli, è anche una storia di vita quotidiana che entra in ognuno di noi, entra anche nel protagonista del libro Cuore di Tenebre, Mr. Kurz, evocato nelle ultime righe che vi sono appena state lette. Lui è per definizione un grande vincitore, ma anche il grande perdente. E la prima domanda è d'obbligo: perché Corrado Passera, che è l'ospite di oggi, ha scelto come dialettica di posizioni e di emozioni e di situazioni vittoria e sconfitta? Allora, l'ho scelto perché c'era una lista e questa mi sembrava la combinazione di sentimenti ed emozioni più presente nella vita. Il concetto di vittoria e di sconfitta sono forse tra lo strumentario che più accompagna nella vita, che più cambiano nella vita il concetto di che cos'è vittoria, di che cos'è sconfitta, di come si mischiano, di quante volte dall'una nasca l'altra. È un qualcosa che con la vita e crescendo... che con crescendo si prende forma, è una delle metafore più frequenti anche nel cercare di parlare con i propri figli di che cosa significa vivere. Per cui come tema l'ho scelto per quello, perché per queste ragioni. Dopodiché bisognava scegliere con che libro commentarlo. E Cuore di Tenebra era adatto anche perché i forti perdono, e questo è un messaggio importante che si impara nel corso della vita, non sempre, ma possono perdere, non necessariamente vince chi merita, non necessariamente perde chi ha colpa. Poi c'è, come diceva Tamburini, un'interpretazione forte, storica, questa va collocata storicamente, i belgi in Congo, quel disastro umanitario che hanno combinato in quel tempo, però si vede che a fronte di questo apparente vittorioso uomo bianco, che poi è anche bianco fisicamente, come è stato descritto nella lettura di Minniti, cioè proprio appare bianco rispetto al nero di tutti gli altri. E poi, anche leggermente profumato. Bianco, profumato, algido, staccato, con una sedia più alta. Ecco, quindi uno dice, vabbè, la storia porta certi popoli a vincere. In realtà poi sappiamo, come hai detto tu, che non è vero, ma anche nel libro anche i bianchi più forti, i bianchi più onnipotenti come Kurz alla fine perdono e vince, non è che vince un altro individuo, vince la natura, vince l'Africa, vince questa massa che è molto mischiata con la natura, connaturata con la natura, che non sa neanche di vincere. Sa probabilmente che si sta difendendo, però alla fine vince e prevale. Per cui, insomma, individuo verso collettività, civiltà nostre rispetto ad altre, insomma, aveva molti spunti per dire parliamo un po' di vittoria e sconfitta, facciamo un altro passo avanti nel capire cos'è vittoria e cos'è sconfitta. E poi un punto di partenza importante è definire i concetti di vittoria e di sconfitta, perché è meglio è più vittoria l'affermazione, la vincita, no? Il raggiungimento del proprio obiettivo, o è più vittoria la coerenza di se stessi anche in una sconfitta? Beh, anche per esperienze recenti devo dire che è più vittoria la coerenza con le proprie idee. Però effettivamente non è un dato scontato. Non è un dato scontato, bisogna sapere che quello che è vittoria per te magari è contemporaneamente sconfitta per altri, ma anche per te può essere una vittoria su certi fronti, la coerenza, e può essere una sconfitta perché magari una tua idea non ha prevalso, per cui vinci e perdi contemporaneamente, quindi bisogna sapere giocare tutte le parti. E quando dicevo parlare ai propri figli, ecco, questa multidimensionalità delle cose, il come misurare la vittoria, che certe volte uno si misura solo su una cosa e poi si perde per la strada tutti gli altri parametri, sia nella vita familiare, sia nella vita di lavoro. Uno si prende un parametro e dice io vinco su quello, ecco, però se ti perdi tutto il resto intorno hai comunque perso. Ma poi la vittoria a breve o la vittoria più avanti? Ecco, non c'è risposta a queste domande, ma è una parte importantissima dell'essere consci della vita. Però forse una risposta potresti darla, una risposta secca. Vai. È meglio la vittoria ad ogni costo o perfino una sconfitta ma a patto di una coerenza? No, io sono sicuramente per questa seconda. Poi il concetto di ogni costo è proprio dalla risposta, cioè non c'è vittoria che si possa fare a tutti i costi, oppure il fine giustifica i mezzi, che è un po' una cosa che ci siamo abituati a sentir dire e quasi quasi a premiare coloro che raggiungono il risultato non importa con che mezzi. Ecco, no, cioè fini e mezzi sono entrambi scelte e se come in questi casi si vince senza limiti, senza regole, sono vittorie a parte vulnerabili, a parte insostenibili, ma comunque non possono essere definite vittorie. E secondo te nella cultura prevalente oggi della civiltà occidentale qual è il concetto di vittoria che è più quell'altro. E qui non importa come, l'obiettivo, il risultato a breve, e spesso è un obiettivo addirittura contro, neanche per, è una vittoria su qualchedun altro e non di qualcuno per realizzare delle cose. Però naturalmente c'è tutto, nel nostro mondo c'è tutto. Non c'è dubbio che appare, viene fuori di più questa, che è una forma di vittoria che non manda avanti il mondo spesso nel modo giusto. Si potrebbe aggiungere, prendiamo atto, ma forse non con grande soddisfazione, che questo è il concetto prevalente di vittoria. Ma ogni confronto tra sconfitta e vittoria implica uno scontro, una battaglia, ed è il secondo tema della lettura che abbiamo scelto per quelle di oggi pomeriggio. Al sorgere del sole ci trovammo immersi in una nebbia bianca, calda, gommosa. Verso le 8, forse le 9, si alzò come si alza una saracinesca. Poi la bianca saracinesca si abbassò senza intoppi, come scivolando su guide ben oliate. Diedi di nuovo l'ordine di mollare la catena dell'ancora che avevamo iniziato a issare a bordo. Prima che finisse di scorrere, con un rantolo soffocato, un grido altissimo di infinita desolazione, si alzò adagio nell'aria ovattata. Si spense, un clamore lamentoso modulato su selvagge dissonanze ci riempì le orecchie. Era talmente inaspettato che sentii sotto il berretto i capelli rizzarsi. Non so che effetto facesse agli altri. Quel clamore lugubre e tumultuoso era sorto talmente improvviso e apparentemente da ogni luogo e in una sola volta che mi parve che a gridare fosse stata la nebbia stessa. Culminò in un improvviso scoppio di urla acute, di un'intensità quasi intollerabile, che cessò di colpo, lasciandoci irrigiditi in una varietà di pose ridicole, in ostinato ascolto del silenzio quasi altrettanto spaventoso ed assoluto. Dio mio, ma di cosa si tratta? Balbettò accanto a me uno dei pellegrini. Non si vedeva che il battello sul quale stavamo, dai contorni così sfocati che sembrava sul punto di dissolversi, e tutto intorno una nebbiosa striscia d'acqua, larga forse mezzo metro, nient'altro. Attaccheranno, bisbigliò una voce atterrita. Ci faranno a pezzi tutti in questa nebbia, mormorò un altro. Quello a cui in seguito si sarebbe alluso come un attacco, in realtà non fu che un tentativo di respingerci. Lungi dall'essere aggressiva, l'azione non era neanche difensiva nel senso usuale del termine. Intrapresa sotto la spinta della disperazione, non era che un modo per proteggersi da noi. Stavo attento allo scandaglio, quando vidi il mio scandagliatore smettere d'improvviso il lavoro e buttarsi boccone sul ponte. Ero esterrefatto. Intorno volavano dei bastoncini finissimi, fitti. Mi sibilavano davanti al naso, cadevano ai miei piedi, battevano dietro a me contro la cabina. Erano frecce per Giove e le lanciavano contro di noi. E allora, improvvisamente, come se mi fosse caduta una benda dagli occhi, distinsi in fondo a quel tenebroso intrigo vegetale nei petti nudi, delle braccia, delle gambe, degli occhi sfavillanti, la boscaglia brulicava di membra umane in movimento, lucenti del colore del bronzo. Le fronde si agitavano, dondolavano, frusciavano, ne uscivano volando le frecce. «Tienila dritta!» dissi al timoniere. Era come ordinare a un albero di non muoversi al vento. Mi precipitai fuori, sull'acqua, davanti a noi un'increspatura, un tronco d'albero. Sotto i miei piedi scoppiò una scarica di fucili. I pellegrini avevano aperto il fuoco con i loro Winchester e stavano letteralmente innaffiando di piombo la boscaglia. Si alzò un malefico nuvolone di fumo che avanzava lentamente. «Bestemmiai!» In piedi sulla soglia mi tenevo sul vano della porta con le frecce che arrivavano a sciami. La boscaglia cominciò a urlare. Non c'era spazio per far marcia indietro, neanche se lo avessi voluto. Il tronco era da qualche parte davanti a noi, vicinissimo. In mezzo a quel fumo maledetto non c'era tempo da perdere. Perciò schiacciai il battello contro la sponda, dritto contro la sponda dove sapevo che l'acqua era più profonda. Strisciammo lentamente contro i cespugli sporgenti in un vortice di rametti spezzati di foglie svolazzanti. Il fuoco di fila si interruppe di botto una volta svuotati i caricatori. Al di là del timoniere invasato che brandiva la carabina scarica urlando in direzione della riva, vidi delle vaghe forme umane correre piegate in due, saltare, strisciare, indistinte, incomplete, evanescenti. Qualcosa di grosso apparve nell'aria davanti al portello. La carabina volò fuori bordo e l'uomo, indietreggiando rapido, mi lanciò di traverso un'occhiata straordinaria, profonda, familiare, e poi cadde ai miei piedi. Batté la testa due volte sulla ruota del timone e l'estremità di quelle che sembrava una lunga canna sbatacchiò in giro, rovesciando uno dei sgabelli da campo. Il fumo s'era diradato. Avevamo evitato il tronco e guardando in avanti vidi che un centinaio di metri più in là sarei stato libero di allontanarmi dalla riva. Ma dovetti abbassare lo sguardo perché mi sentii improvvisamente i piedi caldi e bagnati. L'uomo era riverso sulla schiena con gli occhi fissi su di me e le mani avvinghiate a quella canna. Era l'asta di una lancia che, scagliata o affondata attraverso il portello, lo aveva colpito al fianco appena sotto le costole. Avevo le scarpe zuppe di sangue. Una pozza rosso scura luccicava immobile sotto la ruota del timone. Gli occhi dell'uomo brillavano di una lucentezza stupefacente. «È morto!» mormorò la gente, immensamente impressionato. «Su questo non c'è dubbio», dissi io, strappandomi freneticamente i lacci delle scarpe. «A proposito, suppongo che a quest'ora sia morto anche il signor Kurz». La battaglia è quella che determina la vittoria oppure la sconfitta. Nel brano che avete appena ascoltato è una battaglia... Non sempre la battaglia, ecco, comunque diamolo... Vai pure avanti. La battaglia però... che avete ascoltato è una battaglia che è avvenuta a colpi di frecce, di sciami di frecce. Ma non c'è soltanto questo tipo di battaglia, ci sono anche battaglie diverse, ci sono battaglie che si svolgono nell'economia, nella finanza, nella politica. Passera, prima di ministro, è stato manager di azienda e banchiere. Ecco, quali sono state le tue battaglie e perché, come hai sottolineato, la battaglia non è sempre decisiva nel decidere le vittorie e le sconfitte, anzi io direi di partire proprio da questo secondo aspetto. Come si determina l'esito, come si determina la differenza tra battaglia e sconfitta, e tra vittoria e sconfitta, e perché non sempre la battaglia è decisiva nel determinarla? Allora, la battaglia non è sempre l'elemento decisivo. Prima di tutto perché la battaglia può non essere la guerra, quindi non necessariamente vincere una battaglia o addirittura se vinci una battaglia ma ti dissangui poi alla fine non arrivi in fondo, ma mi riferivo più a un'altra cosa. La vera vittoria è quando fai in modo che non arrivi neanche ad ingaggiare la battaglia perché il nemico, l'avversario o il cattivo, come vogliamo dirlo, si ritira e non ingaggia. Quindi la massima vittoria, parlando sempre di cose, appunto, guerre, battaglie o contrapposizioni, è quando tu riesci a fare in modo che il nemico o l'avversario si ritiri prima della battaglia. Questo è il massimo del risultato. Poi la battaglia di per sé non è una vittoria, perché le guerre o comunque le contrapposizioni sono fatte di tante battaglie, ma questo è più ovvio. Per quanto riguarda Conrad, perché c'è dentro un sacco di simboli relativi al suo messaggio in questo pezzo che è stato appena letto, prima di tutto lui vuole contrapporre frecce e fucili e quindi ridicolizzare le cosiddette invincibili armi della modernità e dei popoli sviluppati che alla fine non ce la fanno, anzi proprio perdono, perché è chiaro che qui alla fine perdono coloro che avevano i fucili e vincono coloro che avevano le frecce. E vincono pur non essendo in nessun modo loro gli aggressori, loro in fondo si stanno solo difendendo, i cosiddetti pellegrini che erano dei lestofanti che stavano risalendo il fiume per andare a trovare avorio, pensano di essere attaccati, in realtà sono gli altri che pensano di essere attaccati e si difendono e comunque ce la fanno, quindi anche quello il tema del chi attacca, chi non attacca, chi si difende o chi si sente attaccato è un'altra cosa che potrebbe farci parlare per tanto tempo. Chi muore, ed è l'ultimo simbolo della lettura, muore l'africano al timone perché è quello che ha tradito i suoi. Ecco, di tutto questo, l'unico morto è lui, che è il peggiore perché dovrebbe essere dall'altra parte del fiume, ha accettato di diventare un servo senza dignità, perché in un'altra parte del libro parla di questo signore come di un cane che ha imparato a muoversi come una piccola macchina, ha tradito i suoi e infatti in questa cosa muore. Sulle battaglie o cosiddette battaglie o insomma robe di lavoro, io non so se poi loro sono particolarmente interessati, magari tiriamo qualche regola senza entrare nei dettagli delle varie Mondadori, Romagnolo, Poste, Olivetti, insomma, io credo che non gliene freghi quasi niente, ecco, cioè ai qui presenti. Beh, qualcuno ha lasciato il segno, a partire dalla Mondadori. No, no, calli dappertutto, no, quello figurati, segni soprattutto su di me, da matti. Magari proviamo a tirar fuori da queste tante cose, tutte fatte o in difesa o per un fine positivo, magari qualche ipotesi di regola che ha funzionato, cioè le battaglie nel campo, battaglie, parola sbagliata, insomma i grandi progetti in campo economico, in campo aziendale, imprenditoriale, di solito sono quelli che riescono a mobilitare tanta gente, cioè non avremmo mai cambiato le poste che erano un po' la metafora dell'Italia se non avessimo coinvolto, motivato, incentivato, formato centinaia di migliaia di persone che alla fine hanno lavorato insieme. Le vittorie imprenditoriali come quelle sociali sono quelle che riescono a mobilitare tante persone per un fine, non contro soltanto contro un ostacolo, che sanno proiettare una visione di medio periodo in cui la gente si impersona, capisce che vale la pena di fare sacrifici perché sono suddivisi, perché ci sono dei benefici belli, grossi, importanti, di nuovo da suddividere equamente, allora si mettono in moto dei meccanismi che portano a risultati molto grossi, al di là certe volte le famose montagne che si spostano è quando succedono questi meccanismi. Vado avanti? Certamente. Battaglie anche senza esclusione di colpi. A quello sempre, bisogna essere sempre preparati e non sorprendersi di niente, anche se poi si è sempre sorpresi perché poi la malizia soprattutto della gente è comunque, quello è un altro discorso ancora, dopo. Torniamo al discorso dei grandi progetti. Molto spesso si ha la convinzione che per muovere le montagne, fare i grandi progetti, bisogna pianificare ordinatamente, eseguire, ed è così. In realtà i grandi progetti di cambiamenti organizzativi avvengono attraverso l'identificazione di un grande sogno, l'identificazione dei passi per raggiungerli e poi grande determinazione, disciplina e ordine, metodo nel realizzarlo. Però questo è solo un modo. Tante volte invece le cose e quelle più sorprendenti succedono perché si ha un'intuizione che non ha nulla a che vedere con la razionalità e con la pianificabilità. Molto spesso si riescono a raggiungere risultati straordinari perché si sa vedere un treno che passa improvviso e senza nessuna pianificazione, ordine, si salta sopra e si fanno prendere alle persone che ci sono intorno a te delle opportunità che sennò perderesti. Questo per dire che che non ci sono regole, ci sono tanti modi per vincere bene e per perdere naturalmente, non ci sono, col tempo si capisce che non ci sono tante regole fisse. Ecco. L'avversario più temibile tra quelli che hai incontrato, avversario in senso metaforico, non si tratta di battaglie vere, nel senso di combattute a colpi di freccia. In generale l'avversario più difficile è il cretino, perché è difficile da prevedere, o quello che proprio non accetta le regole, nel senso che per raggiungere i suoi cosiddetti risultati è disposto anche a far male a se stesso e agli altri oltre misura. Ne hai incontrati? Sì, sì. Beh, qualche nome? Almeno uno? Prego? Qualche nome, magari uno anche soltanto. Passato è passato, semmai no, però certamente quella è una categoria un po' difficile da gestire, perché tu ipotizzi che ci sia una qualche forma di razionalità dall'altra parte e invece non c'è. No, quello che sorprende, ed è un po' la sorpresa dell'ultima parte della vita, cioè della parte dell'ultimo anno un po' più politica, un po' meno aziendale, sempre organizzativa, però insomma un po' più politica. Mi hai anticipato la domanda. Vabbè. Ecco, allora io non ho avuto molte sorprese, perché avendo vissuto 5 anni ai tempi delle Poste nel mondo pubblico e un po' anche politico, non, anche rispetto ad alcuni miei colleghi che hanno avuto proprio il trauma del trovarsi dall'altra parte della luna, io non ho avuto questo ero preparato a molto. Ero preparato ed ero convinto, come sono, che la pubblica amministrazione e il mondo pubblico sia un serbatoio di miglioramento, un'opportunità di miglioramento del nostro paese clamoroso, possibile, perché ho usato prima la parola metafora per parlare della Posta. La Posta per me è stata la metafora dell'Italia che può essere, era la cosa meno funzionante, più vecchia, più insalvabile, più irrecuperabile. Ed era proprio il simbolo della pubblica amministrazione non recuperabile, e grazie alla gente della Posta, introducendo regole giuste, mettendoci coraggio, mettendoci creatività, abbiamo dimostrato che l'Italia dagli ultimissimi posti della classifica poteva diventare una dei primissimi anche nelle graduatorie europee e internazionali. Quindi io partivo con questo, e sono partito e tuttora sono convinto, ho questo, diciamo, presupposto positivo nei confronti del pubblico e della pubblica amministrazione. Certamente quest'anno abbiamo toccato con mano quanto sia ancora più schiacciato sul brevissimo termine il calcolo, la misurazione della vittoria e della sconfitta nel mondo della politica. Cioè, prima dicevamo è difficile misurare la vittoria e la politica, ma certamente è un errore misurarla solo e sempre sul brevissimo, sulla frase, sul sopracciglio, sulla contrapposizione, sul cosa succede oggi e domani. Ecco, questa è una cosa che schiaccia questo breve termine, che è una delle ragioni anche di problemi nelle aziende, ma certamente anche nella politica. Questa visione brevissima delle cose è una malattia grave che dobbiamo un po' correggere, perché certo il mondo e la vita è fatta anche di singoli giorni, però ci deve essere la visione, l'obiettivo, a che cosa tendere, a cosa stiamo costruendo insieme. Ecco, questo, se pensate un po' anche alle ultime elezioni, di progetto, di passione, di lungo termine, ecco, proprio pochino. Ecco. Il tramonto delle ideologie ha aggravato questa situazione della politica? Sì, però è anche una meraviglia. Cioè, le ideologie erano gabbie, erano determinismo, erano la storia già scritta, dovevi scegliere quale e metterti in binario, dopodiché era già previsto quello che sarebbe successo. Sono cadute tutte, come ovvio che fosse, è caduta, secondo me, anche quell'ultima paraideologia, che era quella del mercato perfetto, delle aspettative razionali nei comportamenti sociali, e adesso siamo finalmente totalmente liberi, un po' più sconcertati, perché non abbiamo parametri, non abbiamo binari, in taluni casi dobbiamo inventarci noi il futuro, costruircelo noi, ma la fine delle ideologie è un passaggio secondo me, della civiltà clamoroso, cioè è la libertà. È la libertà di futuro. Tornando alle battaglie, la migliore scuola di addestramento che hai avuto qual è stata? Questo presuppone che il risultato sia stato positivo, cosa che non darei del tutto scontato. L'addestramento, ma comunque non è ipotizziamo che ci sia una valutazione positiva di questa scuola 35ennale. Secondo me è stata la fortuna della vita di poter fare tante cose diverse, cioè di avere il coraggio ogni tanto di ricominciare, o per necessità o per decisione, di ricominciare da capo, di lavorare nel mondo del pubblico e del privato e del pubblico, del domestico e dell'internazionale, del mondo dell'industria, proprio hard, e nel mondo dei servizi. Ecco, probabilmente questa possibilità di vedere da varie prospettive la società, la comunità, poi oltre che l'economia, è forse stata la più grande fortuna che ho avuto. L'hai avuta per un sommarsi di vittorie o anche per qualche sconfitta? Per una combinazione delle due. In taluni casi sono stato cacciato, in altri casi ho scelto di andarmene perché non mi andava bene, in altri casi ancora vedevo un'opportunità da andare a prendere, in altri, come l'ultimo caso, io stavo benissimo dov'ero. Però quando persone come Napolitano, come Monti, ti dicono guarda c'è bisogno di te, prendi, lasci e il giorno dopo giuri, anche se vai a fare un mestiere che non sai come fatto. Beh, questo ci aiuta anche a comprendere meglio la dicotomia tra vittoria e sconfitta, no? Cioè forse da una sconfitta nasce una vittoria, può nascere una potenziale vittoria. Tante volte, ma succede anche nel libro. Benissimo, a proposito di libro è arrivato il momento della terza lettura e si ricollega a un passaggio del tuo ultimo intervento dove fai riferimento al fatto che in ogni battaglia esiste la necessità di fare dei piani, possibilmente dei grandi piani, anche se poi non sempre i grandi piani risultano vincenti. Via con la terza lettura, Minniti. Kurz si avventurava da solo nelle profondità più remote della foresta. Ma cosa faceva? Esplorazioni? Domandai. Sì, certo, rispose il ragazzo. Aveva scoperto molti villaggi e anche un lago. Lui non sapeva esattamente dove, ma la maggior parte delle spedizioni di Kurz avevano l'avorio come obiettivo. Parliamoci chiaro, dissi. Razziava il paese. Fece di sì con la testa. Kurz indusse la tribù a seguirlo, vero? Insinuai. Esitò un istante. Lo adoravano, disse. Ma che cosa si aspettava? È arrivato da loro con in mano il tuono e il fulmine. Questa gente non aveva mai visto niente di simile, né di così terribile. Lui può essere davvero terribile. D'un tratto, da dietro l'angolo della casa apparve un gruppo di uomini come se fossero sbucati dal terreno. Avanzavano immersi nell'erba fino alla vita, in gruppo serrato, portando in mezzo a loro una barella improvvisata. Vidi l'uomo che giaceva nella barella mettersi a sedere sopra le spalle dei portatori e maciato con un braccio alzato. Kurz. La coperta gli era caduta di dosso. E il suo corpo atroce e pietoso ne emergeva come da un sudario. Pareva che un'animata immagine della morte scolpita in un vecchio avorio tendesse la sua mano minacciosa a un'immobile folla di uomini fatti di un bronzo scuro e lucente. Lo vidi spalancare la bocca come se avesse voluto ingoiare tutta l'aria, tutta la terra e tutti gli uomini che aveva dinanzi. Una voce profonda giunse debolmente fino a me. La folla dei selvaggi si stava disperdendo senza alcun percettibile movimento di ritirata, come se la foresta che aveva espulso quelle creature così all'improvviso ora le risucchiasse come un respiro dopo un lungo sospiro. Quando mi trovai realmente di fronte a lui, vidi il pericolo nelle sue giuste proporzioni. Anche se stava in piedi a fatica, la sua voce era ancora piena di vigore. Vada via. Si nasconda, disse col suo tono profondo, era terrificante. Lei si perderà, dissi. Lei si perderà del tutto. Si hanno talvolta questi lampi di ispirazione, sapete? Avevo trovato la cosa giusta da dire, anche se in verità non avrebbe potuto essere più inesorabilmente perduto di quanto già non lo fosse in quel momento, quando furono gettate le basi della nostra intimità, destinata a durare fino alla fine e ancora oltre. Avevo dei piani grandiosi, mormorò esitante. Ero sul punto di fare grandi cose, insistette. Il suo successo in Europa è in tutti i casi assicurato. Cercavo di rompere l'incantesimo, il greve muto incantesimo dell'immensità selvaggia che sembrava volerlo attirare nel suo cuore spietato, risvegliando istinti brutali e dimenticati. E il ricordo di non so quali mostruose e graffianti passioni. Solo questo, ne ero sicuro. Lo aveva spinto lì sul ciglio della foresta, quella boscaglia, verso il bagliore dei fucili, il fremito dei tamburi, a quel brusio di misteriosi incantesimi. Solo questo aveva trascinato la sua anima sfrenata oltre i limiti di ogni lecita aspirazione. Beh, a questo punto una domanda è d'obbligo. Ti è mai capitato di dire o di pensare, come abbiamo appena sentito nella lettura di Minniti, ero sul punto, peccato, ero sul punto di fare grandi cose? Non credo, non lo so, non mi ricordo, no, credo di no. Ma no, in realtà rispondo così perché sto commentando lui, cioè lui dice quello, dice avevo grandi progetti, però è chiaro che lui aveva dei progetti che non avevano nulla a che fare con tutti gli altri che riguardavano quei progetti. Cioè lui non ce la fa, non perché muore prima di farcela, ma perché ha dei grandi progetti che sono contro, che sono in nessun modo condivisi con tutti coloro che lui, con i quali lui avrebbe voluto realizzarli. Prima ragione. Seconda ragione, lui non ce la fa perché erano diventati progetti da uomo onnipotente, da uomo che pensava di non avere più limiti. Lui si era trovato col suo fucile che l'aveva reso quasi un dio agli occhi di queste persone e si era illuso o si era convinto di essere quasi soprannaturale, di non avere limiti, di non avere vincoli, di non avere regole, di essere appunto onnipotente, che sono le due regole per fallire miseramente. Quindi Conrad quasi lo spiega perché lui non ce la fa, per queste due ragioni, e nello stesso tempo ne fa la caricatura dell'uomo europeo, perché ne fa la caricatura dell'Europa in Africa e spiega perché poi l'Europa in Africa non ce l'ha fatta. Lui poi è l'uomo di successo europeo, perché è il migliore degli agenti, è il migliore dei razziatori, in realtà, d'avorio, e poi è il grande sconfitto, anche se poi nella sconfitta si redime. Quindi Dio acceca i potenti è una massima che ha del vero. Quando si comincia a non avere più i piedi per terra, quando si comincia a considerarsi appunto come Kurz onnipotenti o senza limiti, regole e vincoli, è automatico che si vada a sbattere. Dopo magari aver fatto un sacco di disastri, cioè, e aver fatto pagare questo anche agli altri, però alla fine si sbatte. Qual è il modo migliore per vivere una sconfitta? Beh, anche lì ci sono tanti modi, ognuno poi lo fa con i suoi tempi e i suoi modi, quindi non è che ci sia una regola e poi ci sono tanti tipi di sconfitte, come dicevamo. Però è certo, e questo di nuovo ci ricolleghiamo un po' al libro, che dalla sconfitta si può imparare, si può redimersi, si può portare a casa il messaggio, cioè l'insegnamento. Ecco, noi viviamo in una società che non favorisce tantissimo questo, perché soprattutto in Europa e soprattutto in Italia, rispetto ad altre società più aperte, l'errore, l'insuccesso, anche il fallimento sono considerati più, in altri posti, più fisiologici. Tu tenti, tu apri, tu inizi, tu fai una nuova cosa, può andar bene, può andar male. Se non va bene, tu hai non solo il diritto di ricominciare, se non hai fatto ovviamente cose con dolo, con colpe gravi, ma insomma, se semplicemente non è riuscita la tua idea, tu hai il diritto e quasi quasi il dovere di ritentare. Nella nostra società, ed è un errore, ed è una debolezza, si tende a punire chi sbaglia o chi non ce la fa. Si tende, guarda anche la legge fallimentare che abbiamo corretto, che quasi quasi mette lo stigma per la vita a uno che non ce l'ha fatta. Certo, se ha rubato, è un altro discorso, ma se semplicemente non ce l'ha fatta, c'è un valore quasi sociale nel suo errore che deve essere valorizzato e portato avanti. Errare è un concetto bello come etimologia. Errare vuol dire uscire dal sentiero per cercarne un altro, vuol dire vagabondare, non dà il senso, ha una connotazione quasi negativa, ma vuol dire uscire per cercare altre strade. E quindi è una cosa positiva. È perseverare che è diabolico. È perseverare negli stessi errori, che vuol dire non imparare dalla sconfitta, che è, dopo ne parliamo perché l'ultimo pezzo parla della sedicente fidanzata che non vuole imparare, vuole illudersi, vuole autoconsolarsi illudendosi, mentre paradossalmente lui, Kurz, nel momento in cui muore e nel momento in cui ammette, dicendo che orrore, ma lo sentiamo dopo, in un certo senso si lava dei suoi errori perché li ammette e dice: tutto quello che ho fatto era vestito forse da conquista, di civiltà, eccetera, ma di fatto che orrore è stata la mia vita. E quindi lui drammaturgicamente impara dalla sconfitta. E qual è il modo migliore per vivere una vittoria? Di nuovo, non lo so, cioè posso dire alcune cose che mi sono imparato nella vita e che cerco di passare ai miei figli. Forse la regola fondamentale quando si riesce o si riesce a vincere, anche se magari anche contro o in alternativa a qualcuno, è non stravincere, cioè non voler offrire la possibilità comunque di una soluzione che salvi quanto di buono c'è anche nell'avversario, e questo in taluni casi si può fare, in taluni casi no. Un'altra cosa di cui tener conto, perché di solito la vittoria è euforica, quindi non guarda più, non ha più tempi, perde obiettività, e dire: ok, ho vinto su questo, però c'è ancora tanto altro intorno, tanto altro da fare. Ecco, quindi sono un po' lezioni di equilibrio e di fronte al successo, insomma. Ecco. E qual è l'alleato più affidabile che vorresti avere al tuo fianco? Ma era previsto domande così? Io pensavo di parlare del libro. Pensavi di parlare di teoria, ma allora, la pratica è più divertente, certamente anche più interessante. Quindi l'alleato più affidabile, ci deve essere la condivisione dei valori di fondo, cioè bisogna senza spiegarsi essere d'accordo sulle regole fondamentali della vita. E bisogna accettarsi, cioè deve essere una persona che accetta te, tu accetti lui con i tuoi e i suoi limiti. Bisogna essere felici di essere insieme, non basta la razionalità, non basta dire questo ha tutte le caratteristiche per essere l'alleato ideale, cioè deve essere anche bello ed entusiasmante essere insieme e godere insieme di risultati. Insomma, quindi sto disegnando mia moglie. Ecco, la sorpresa più spiacevole che hai avuto? Non puoi dire tua moglie, però, questo è vietato. Ma senza far nomi, un paio di persone su cui proprio contavo e che invece mi utilizzavano. Bene, ci avviamo alla quarta e ultima lettura e è forse la cosa più dolorosa, ma è anche la sottolineatura, l'accendere i riflettori sull'unica vera sconfitta che risulta irrimediabile, ed è quando chi vince è la morte. Tommaso Minniti. Il giorno dopo, quando partimmo a mezzogiorno, la folla, di cui avevo sempre percepito chiaramente la presenza dietro la cortina degli alberi, si riversò di nuovo fuori dalla foresta, riempiendo la radura, coprendo il pendio di una massa ansimante, fremente. Avevamo trasportato Kurz nella cabina di pilotaggio. Lassù c'era più aria. Disteso sulla cuccetta, guardava a occhi sbarrati fuori del portello aperto. La scura corrente fluiva rapida dal cuore della tenebra, portandoci verso il mare a una velocità doppia di quella della nostra risalita. Non meno rapida sfuggiva la vita di Kurz, trascinata dal riflusso che la spingeva verso l'oceano inesorabile del tempo. Il direttore era molto placido, ormai non aveva più preoccupazioni di vitale importanza. La faccenda si era risolta nel migliore dei modi. Kurz discorreva. Una voce. Che voce! Risuonò profonda fino alla fine. La desolazione della sua mente esausta ora era ossessionata da immagini annebbiate, immagini di gloria e di ricchezza. L'ombra del Kurz originario stava al capezzale di quel vuoto simulacro destinato ad essere ben presto sepolto nell'argilla della terra primordiale. L'amore diabolico e l'odio celeste per i misteri che aveva penetrato si contendevano il possesso di quell'anima sazia di emozioni primitive, avida di ingannevole gloria, di falsi onori, di tutte le apparenze del successo e del potere. Una mattina mi diede un pacco di carte e una fotografia, il tutto legato con un laccio da scarpe. «Lo conservi per me», disse. «Quell'inutile idiota, intendendo il direttore, è capace di frugare nelle mie casse quando non lo vedo». Una sera, entrando nella sua cabina con una candela, trasalì nel sentirgli dire con voce un po' tremolante: «Giaccio qui, nella tenebra, aspettando la morte». La luce era a due passi dai suoi occhi. Feci uno sforzo per mormorargli sciocchezze e rimasi curvo sopra di lui come inchiodato. Non avevo mai visto, e spero di non rivederlo mai più, niente di paragonabile al cambiamento che si era operato sui suoi lineamenti. Oh no, non ero commosso, ero affascinato. Era come se fosse stato squarciato un velo. Su quel volto d'avorio vidi l'espressione di un torvo orgoglio, di un potere spietato, di un terrore codardo e anche di una disperazione immensa, inesorabile. Stava forse rivivendo la sua vita in ogni particolare, in quel supremo momento di conoscenza completa, nei suoi desideri, nelle sue tentazioni, nelle sue sconfitte. Due volte con voce bassa lanciò verso non so quale immagine, quale visione, un grido che non era che un soffio. Che orrore! Che orrore! Soffiai sulla candela e uscii dalla cabina. I pellegrini stavano cenando e presi il mio posto di fronte al direttore. Improvvisamente il servo del direttore mostrò la sua insolente testa nera sulla soglia e disse, in un tono di ingiurioso disprezzo, «Mr. Kurz, lui è morto». Non mi avvicinai più a quell'uomo notevole che aveva pronunciato un tale giudizio sulle avventure terrestri della sua anima. La voce era spenta. C'era mai stato un altro lì. Ma vi rendo perfettamente conto che il giorno dopo i pellegrini seppellirono qualcosa nella fossa fangosa. E per poco non seppellirono anche me. Comunque, come potete vedere, non ho raggiunto Kurz lì per lì, no. Sono rimasto a sognare l'incubo fino alla fine e a dimostrare la mia fedeltà a Kurz, ancora una volta. Il mio destino, che buffonata la vita. Questo misterioso concatenarsi di una logica implacabile per uno scopo tanto futile. Il più che se ne possa sperare è una qualche conoscenza di se stessi, che viene troppo tardi. E un mucchio di inestinguibili rimpianti. Ho lottato contro la morte. È il combattimento meno eccitante che si possa immaginare. Si svolge in un grigiore impalpabile, con niente sotto i piedi, niente intorno, niente spettatori, senza clamore, senza gloria, senza il gran desiderio di vincere, ma nemmeno una grande paura di perdere. In un'insalubre atmosfera di tiepido scetticismo, senza una ferma convinzione nel proprio diritto, e meno ancora in quella dell'avversario. Se è questa la suprema forma della saggezza, allora la vita è un enigma più oscuro di quanto alcuni di noi pensano che sia. Ero a un passo dalla mia ultima occasione di pronunciare una parola e ho scoperto con umiliazione che probabilmente non avevo niente da dire. Ecco perché affermo che Kurz era un uomo notevole, lui aveva qualcosa da dire. E l'ha detta. Dal momento che ho sbirciato anch'io oltre la soglia, capisco meglio il significato del suo sguardo fisso, che non poteva vedere la fiamma della candela, ma era abbastanza vasto da abbracciare l'universo intero, abbastanza acuto per penetrare in tutti i cuori che battono nella tenebra. Aveva tirato le somme e aveva giudicato. Che orrore. Dopotutto, questa era l'espressione di una specie di fede. Lì c'era candore, convinzione, una vibrante nota di ribellione nel suo sussurro. Era il volto terrificante di una verità intravista. Il misterioso compenetrarsi del desiderio e dell'odio. Lui aveva fatto il passo supremo. Aveva oltrepassato la soglia. Mentre a me era stato consentito di ritirare il mio piede esitante. E forse in questo consiste tutta la differenza, forse tutta la saggezza, tutta la verità e tutta la sincerità. Sono concentrate in quell'imponderabile momento in cui noi oltrepassiamo la soglia dell'invisibile. Forse. Mi piace credere che la mia ultima parola non sarebbe stata una parola di indifferente disprezzo. No, meglio il suo grido. Molto meglio. Era un'affermazione, una vittoria morale pagata al prezzo di innumerevoli sconfitte, di abominevoli terrori, di soddisfazioni abominevoli. Ma era una vittoria! Ecco perché sono rimasto fedele a Kurz, fino alla fine. E anche oltre, quando, molto tempo dopo, udii una volta ancora non la sua voce, ma l'eco della sua magnifica eloquenza, rimandatami da un'anima pura e trasparente come un cristallo di rocca. Mi erano rimasti un pacchetto di lettere e il ritratto della ragazza. Decisi che sarei andato a trovarla e che le avrei restituito di persona il ritratto e quelle lettere. Venne avanti, tutta vestita di nero, pallida, fluttuante verso di me nella luce del crepuscolo. Era in lutto. Era passato più di un anno dalla morte di lui, più di un anno dalla notizia della sua morte, ma lei sembrava dovesse ricordarlo e piangerlo per sempre. Posai delicatamente il pacchetto sul tavolino e lei ci mise la mano sopra. Lei lo conosceva bene, mormorò dopo un attimo di doloroso silenzio. L'intimità cresce in fretta laggiù, dissi. Lo conoscevo quanto è possibile a un uomo conoscerne un altro. E lo ammirava? Era impossibile conoscerlo senza ammirarlo, vero? Era un uomo notevole. Era impossibile non amarlo. Terminò con ardore, lasciandomi muto e sgomento. Com'è vero, e pensare che nessuno lo conosceva bene come me. Io lo conoscevo meglio di tutti. Lei lo conosceva meglio di tutti, ripetei. E magari era vero. Ma ad ogni parola pronunciata la stanza si faceva più buia. E solo la sua fronte, liscia e bianca, rimaneva accesa per la luce inestinguibile della fede e dell'amore. Mi perdoni, io ho pianto così tanto in silenzio. Lei è stato con lui fino all'ultimo. Penso alla sua solitudine, nessuno vicino che lo capisse come l'avrei capito io. Forse nessuno ad ascoltare. Fino all'ultimo, dissi scosso. Ho udito la sua ultima parola. Mi interruppi. La ripeta. Mormorò con voce spezzata. Voglio qualcosa con cui vivere. Ero sul punto di gridarle. Ma non la sente. Il crepuscolo attorno a noi la stava ripetendo in un bisbiglio ostinato, in un bisbiglio che sembrava gonfiarsi minaccioso. Che orrore. L'ultima parola. Per aiutarmi a vivere, la prego, non capisce che io lo amavo. Mi ricomposi. Parlai lentamente. L'ultima parola che ha pronunciato è stata il suo nome. Percepii un leggero sospiro e poi il mio cuore cessò di battere, fermato di colpo da un grido terribile ed esultante, un grido d'inconcepibile trionfo, di dolore inesprimibile. Lo sapevo, ne ero sicuro, lo sapevo. Lo sapeva, ne era sicura. La sentì singhiozzare, aveva nascosto il viso tra le mani. Ebbi l'impressione che prima che io potessi fuggire la casa sarebbe sprofondata, che il cielo mi sarebbe crollato sulla testa. Ma non accadde. Il cielo non crolla per così poco. Sarebbe crollato, mi chiedo, se avessi reso a Kurz quella giustizia che gli era dovuta. Ma non ne fui capace. Non potevo dirlo a lei. La tenebra sarebbe stata troppa. Troppa. forse sarebbe stato meglio chiudere qui, ma comunque vai avanti. Il regista l'aveva detto. Grazie Tommaso Menniti per le letture davvero coinvolgenti. Il miglior ringraziamento è quello del pubblico e degli applausi. Vittoria, sconfitta, l'abbiamo detto, sono storie della vita, sono storie della vita di tutti noi. Tu hai dei figli, Corrado. Quando cerchi di trasmettergli delle esperienze di vita importanti, a proposito di vittoria e sconfitta, cosa ti viene da dirgli? Innanzitutto non bisogna fare proprio lezione, perché sennò il messaggio non passa. magari dire il contrario. È più una questione magari di provare a dare l'esempio o di provare a far passare le cose. In realtà ogni tanto una bella lettera ci sta pure, per cui non è non lezione, ma insomma un momento in cui su qualche cosa di importante gliela metti lì come un dono, come un non una cosa impegnativa, ma in cui fai capire che hai messo tutto te stesso per trasferire anche in maniera ordinata qualche cosa. Comunque, torniamo alla sconfitta e alla vittoria. Probabilmente alcune cose le abbiamo già dette. Certamente che vittoria e sconfitta sono mischiate insieme, che sia la vittoria che la sconfitta non durano, sia la vittoria che la sconfitta non durano, e questo è un sollievo. Che la vittoria e la sconfitta hanno tempi diversi, nel senso che spesso per avere la vittoria bisogna saper aspettare, che dopo la sconfitta bisogna essere pazienti, quindi il valore del tempo nella sconfitta e nella vittoria sono molto importanti. Poi quello che ho detto prima è un punto importante: non sempre vincono i buoni, non sempre perdono i cattivi, non sempre si vince per merito e non sempre si perde per demerito, che sembra quasi una cosa cinica, però bisogna sapere che è così e che bisogna sapere che è così. Poi forse un altro tema che spesso viene fuori nel parlare con i miei figli, con mia moglie, parlo dei figli più grandi perché quelli piccolini non hanno ancora la pressione di questi messaggi morali forti, ce l'avranno fra un po', ma per adesso sono troppo piccoli, che il mondo non è fatto di vincitori, di sconfitti, di spettatori, cioè tutto si mischia, tu sei contemporaneamente vincitore, sei sconfitto certe volte, sei spettatore se non riesci a entrare in partita, però non ci sono le carte date, cioè te la giochi e tu sei responsabile non solo di te stesso ma anche degli altri. Quello che ha detto nell'ultima omelia, nella sua prima omelia l'Angelus, mi sembra di ricordare, salvo che non fosse quella della sua prima messa, Papa Francesco, quando ha detto sentitevi custodi di tutto e di tutti, e per chi diciamo non la vede dal punto di vista della fede, prendiamo Periandro greco di tanti anni fa, che dice occupatevi del tutto, meleta topan, siate responsabili del tutto. Ecco, questo è qualcosa che rimette insieme vincitori, vinti, spettatori, giocatori, sapendo che ciascuno di noi gioca tutte le parti, spesso contemporaneamente, e deve accettarlo, anzi deve farne uno strumento di vita bella. Bene, grazie a voi per l'attenzione con cui avete seguito questo pomeriggio. Mi piace concluderlo ricordando una frase di un personaggio che era piuttosto famoso, insomma, è morto da qualche tempo, che mi ha sempre molto colpito. Lui diceva, una ovvietà, la vita è fatta di vittorie e di sconfitte, di scelte azzeccate e di errori. L'importante è alla sera cercare di fare un bilancio. Quando le sconfitte sono entro il 30% del totale, c'è da essere soddisfatte. Quando invece sono di più, allora è meglio porsi qualche interrogativo. Con questa frase che mi è piaciuto ricordare vi saluto e aggiungo che alla fine però, per quanto mi riguarda, ho sempre avuto una spiccata attitudine a preferire gli sconfitti, ma forse questo è un errore.